Ed eccoci qua con una nuova puntata di Random 9, la 34esima credo. Buonasera a tutti i wombati e a tutti le wombate, ho invertito gli articoli. Oggi Paolo non c'è perché sta lavorando alacremente, quindi non sarà a farci compagnia. Tra l'altro, se ci state ascoltando in AM, sappiate che è venuto giù il sito della radio, quindi ci vorrà un po' per ripristinarlo. Se la frequenza M1359 vi sta un po' stretta, potete comunque trovarci su streampunk.cc. E niente che dire, vi direi che ho in mente una canzone da diversi giorni e non riesco a levarmela dalla testa, non so per quale motivo mi si sta ballettando nella mente, quindi ho pensato come primo pezzo di mettere proprio questa canzone che mi sta piacevolmente tormentando da giorni, anche se io a dire il vero non sono un fan della band, ma insomma il pezzo è famosissimo, loro sono gli Smiths e il pezzo è Big Mouth Strikes Again e ve lo farei sentire subito. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your head. Oh, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be questi erano gli Smiths con la loro Big Mouth Strikes Again. Spero che dopo avervela fatta ascoltare e averla riascoltata in radio mi passi dalla mente questo pezzo. Vorrei ricordarvi che se volete comunicare con la radio, con me, ma anche con le altre trasmissioni, potete scrivere sul banner di ricerca diretta a wombat.vado.li. Vi si aprirà un pad con il quale possiamo comunicare scrivendo. Bene, detto questo, andrei continuerei con il rock e andrei più avanti nel tempo, nel senso che questo è un disco del 2022 di una band già che suona, insomma, che è viva dal 1990. Si tratta dei Clutch, band statunitense, che è uscita con l'ultimo album l'anno scorso, non male, e io da quest'album vi ho estratto il pezzo che si chiama Red Alert, tra parentesi Boss Metal Zone, e l'album invece si chiama Sunrise on Slaughter Beach. Questi erano i Clutch con la loro Red Alert, Boss Metal Zone. Spero che vi sia piaciuta, perché è un gran bel pezzo. E adesso andiamo su altre sonorità, rimaniamo sul rock. Però oggi ho ritrovato questo pezzo dei Ray Daytona e Goo Goo Bombos, gruppo surf nostrano, direi, che ho visto anche live diversi anni fa. Non so dirvi se sono ancora attivi, ma se qualcuno lo sa, oppure se qualcuno dei Ray Daytona e Goo Goo Bombos ci sta ascoltando e vuole scriverci qualcosa sul pad, sarebbe gradito farlo, anzi leggerlo, scusate. niente, ve li faccio sentire, non mi dilungo oltre. Erano i Re Daytona in Goog Bombus con la loro Grand Prix. Via, terzo pezzo mandato, diciamo che mi sto scaldando. E a proposito di calore, ho messo sul piatto un pezzo di Lutan Faya, scritto F-Y-A-H, slang giamaicano per fuoco. Lutan Faya che ci delizia con un dubplate, cioè dubplate di, ve lo dico, di Rockstone, pezzo che portato alla ribalta da Marley, uno dei figli di Marley, ora non mi ricordo come si chiama, Campleton e Sizzla, che l'hanno fatto insieme. Io adesso invece la base è quella e Lutan Faya ci canta sopra. Tra l'altro registrato a Little Lion Sound, che ho scoperto essere uno studio che fa fare cose a vari artisti reggae, e tra l'altro ci sarà, dopo vi metterò anche una chicca che ho trovato oggi di un artista italiano, un rapper italiano che canta appunto sulla base di un'altra artista giamaicana, no, anzi, un'artista di Trinidad, sempre a Little Lion Sound. Comunque, detto questo, Lutan Faya. No respect, this is Lutan Faya, Mr. Ankh, respect to respect, knee spec up to your neck, respect to Little Lion Sound, the champion sound, world renowned, rhythm track Lutan Faya. Yes, I. Hi, hi, hi, hi. This is Lutan Faya from your Garazone. Oh, they from your Garazone, yes. So me no come to hurt no flesh, so me no come to draw no blood. Lick lion sound, I go fling no heartwood. Fire burning, you know see it? All right. Foolish drop anytime I left the crib. Me say me nah left it up and more species sound. Boy, I get one in the head. If them ever try save to eye, them a try a die. Hey, if a sound see me thing and try take it, 28 colors in I make me a go lefty. Them a get one in the head. If a sound try step to eye, little lion sound. Hey, and no vex them. them vex, I just surprise them, surprise when them realize. Little lion still the bout. Look safe, yes, them a run, but them can hide. Them realize, little lion, whoa. And no vex, them vex, I just surprise, them realize. Little lion still the bout. Look safe, yes, them a run. Little lion sound, yeah. Alright. We no want fool. If I really love, then no, he must come. No escape for those who come faking. Burn them out for just fun. Them and the little man keep up folly. Rasta the realest and that's fun. Try take man, try to spoil up my phone. Feel like we drop in my gun. It's a good thing the Rasta got stamina. At this time, and I go back down. Them know me comfort and long in ya. Labba them tongue. Hypocrite them try to stigmatize. I try bring me down. That one ya, a straight fire burn. I no vex them vex, I just surprise when they realize. Little lion still the boat. Look see if it is, yes, them a run, but them can hide. Them realize, alright, hey. I no vex them vex, I just surprise them realize. Little lion still the boat. Look see if it is, yes, them a run. Them jump and a run. You know, see it, crown king of kings. We run dance hall, champion boom sound. We rule up yard and broad. Them can this little lion, them sound boy a fraud. The world let them go take who of your guard. Chop, now listen the words. I hear them sound boy, they talking my news. Abuse them, use laugh, cover balling. Me left them stone cold, fist stretch them neck like calling. Got them to listen to the warning. I no vex them, vex, I just surprise. Them realize, oh. Little lion sound, them realize, them sound boy realize. Hey, foolish shop, anytime me left the crib. Me say me nah left it up and smooth specially. A sound I get one in the head. If he never try step too high, sound boy I try a die. Hey, if a sound see me thing and try take it, 28 colors see now he make me a go lefty. Them I get one in the head. If a sound try step too high, don't try your die, sound boy. You ever take yourself go for your sound yet? Jump cross the fence with a pick in your tech. Step in I'm chest, I sprick broke in I'm neck. And I laugh, and I go on like nothing, no go on yet. The funny man select a boy, take with themself, man. Bury them alive, them ready fi go dead. The whole world a ball a wood, this in a T-Jade. Little lion, oh yeah. I no vex them vex, I just surprise them realize. Them sound boy realize. Boy. E questo era Lutan Fire con la plate di Rockstone, cantata da Stephen Marley. Prima non mi veniva, però insomma è lui che l'ha portata alla ribalta. E adesso vi farei sentire 1:11 di Clementino, che ha cantato sul dub plate sul quale ha cantato anche Queen Omega, artista di Trinidad. E in questo 1:11 sentiremo anche Clementino che rappa sopra questa base. People need the cheese to hold a meditate hand, and the working class what to eat them ten son. Little lion sound, burn them down. Don't call we local, we international and we global. I'll tell you this, don't call we no local sound. This little lion sound, now run this reggae business. Rove subio sono scena come lacrima Christ. Para la terra capo ci ha aiutato a crescere i figli. E struntata la politica e tu forse ne dis. E promessa capo restano a buci tu me cis. Yeah, no. Farà luce a Waiyo, e quando tu stai in K-Hall, quando te ne canto ok bro, roba da vacanza tappo, e tu te sorte game off, vedi che non perdo calor, vedi che se perdo valor, vedi che da pengo valor. Non c'ho roba in la Napoli romantica, rispetto po' Senegale, Waiyo una spanna ca, wada wada bam bam. Imagine there's no countries. Iguana, a riposa tengo pasto trono e rispal. Ogni giorno moro coccor una capa tagliata. Stai sicura va servita fredda sta vendetta. E a Giamaica quando appiccia ganci in camere. C'è sta polizia spara ancora. Copetete sta città camora. Come sta da facendo ca fora. Non te ne luoghi a bacchiagnere non giova. E questo era Clementino, non so se l'avete riconosciuto, ma c'ho questo modo di cantare, piuttosto questa voce abbastanza riconoscibile. Bella, secondo me gli è anche venuta bene. E il napoletano poi si presta molto a questo tipo di sonorità, direi. Rimaniamo su queste sonorità, più o meno. Si va dal gruppo francese, che si chiamano Scaramucci, Fat Yanis Odua, non so chi sia, però insomma questo pezzo è con lui, un featuring con lui, e il pezzo si chiama Roots Rock Reggae, che non è quello di Bob Marley. Scaramucci, Yanis Sodu. Buongiorno, Nadia. Put your one in the air, for you know it's unclear. Put your one in the air, for you know you don't fear. Everybody, welcome to the stage. Pour animer la ville et réveiller la foule, qui est son appel, Scaramucci. Suffit de coup de filet, la team des boules, laissez le Chanel et le Gucci. Ici c'est Roots, dance, reggae. Je suis en mood, non, mais tout le monde veut s'ambiancer. Roots, Ricky, reggae. C'est pas Roots, mais les rockers vont danser. Mountain, the ragamuffin, them appear. We don't labor energy, we got yourself a share. I hope everybody out there, them prepare. We cast this time without fear. It will be ashes to ashes and dust to dust. Ain't no forces can stand up to us. United, strong and dangerous. Not like in the past, that's previous. Anytime we get together, that's marvelous. People excited, them massive furious. Ain't no artist in the world like we. When we step out, the whole world a party. Positive vibes and Yanis, I don't want Scaramucci. This is a case of emergency. This is a case of emergency. Pour animer la ville et réveiller la foule, qui est ce qu'on appelle Scaramucci? Suffit de vous filer la team des boules, laissez le Chanel et le Gucci. Ici c'est Roots, dance or reggae. Si son mood non, mais tout le monde veut s'ambiancer. Roots, wicked reggae. C'est pas Roots, mais les rockers vont danser. Revolver, appelle les renforts. Où on prend les affaires, monte le son plus fort. Toutes les mains en l'air, tous les sons on explore. Demande aux experts pour mettre tout le monde d'accord. Scaramucci, Yanis Odua. On compte le débit comme il se doit. Pas de répit, pas de débat. Même s'il y a des soucis, on n'applique pas. We got the whole world apart when we step in. Everybody dress up real nice and clean. Call all the kings and call all the queen. Tell all me select a friend who open. Tell all me girl his friend touch the scene. Because the ladies them bash. And everybody out there them look trash. And the dancer tonight feel hot. There's some on the bunny mountain top. Put them high up on the mountain top. Blessing the Chinese from the mountain top. Pour animer la ville et réveiller la foule, qui est ce qu'on appelle Scaramucci? Suffit de coup de filet, la team des boules, laissez le Chanel et le Gucci. Ici c'est Roots, dance or reggae. Si son mood note et tout le monde veut s'ambiancer. Roots, wicked reggae. C'est pas Roots, mais les rockers vont danser. We are the one. The frost with me, brother. Yes, sir. Langside Yanis Odua. They have a self perform. Check up the West Indies, Madden in Africa. Everlasting love, you see. You don't know. Don't tell the world. Sarah! Them fi know. The ragamuffin know. Oh, cuore. Questa invece era la buonissima Raffaella Carrà con la sua Rumore, primo pezzo che io mi ricordo di aver ascoltato della Raffaella, forse non è vero ma è quello che io mi ricordo come primo pezzo ascoltato, tra l'altro è fighissimo, mi piace un sacco la musica, mi piace la musica, spinge, gran bel pezzo, brava Raffaella, un bacio. Adesso invece vorrei fare tipo un quiz con voi ascoltatori. Però dovreste collegarvi al pad, oppure se qualcuno vuole mandarmi un messaggio, perché metterò il prossimo pezzo ed è il, come si dice, la colonna sonora di una serie famosissima, e quindi niente, se qualcuno la indovina me lo faccia sapere. Orbene, cari Wombati e Wombate, avete scoperto di che serie si tratta? Io non so se l'avete scoperto perché sul pad non c'è scritto, non è arrivata nessuna notifica, quindi forse non l'avete scoperto. Comunque loro si chiamano Vauxhall, credo si pronuncia così, spero, forse no, ma forse no, Broadcast, e il pezzo è You Are the Wildness, però aspetta, l'ho perso. Comunque, rimanendo in tema, riguardo a questo pezzo, io vi farei ascoltare un brano del Red Fang, gruppo divertentissimo, se ci avete voglia e vi piacciono, insomma, scopriteli, con la loro Blood Like Cream, anche il video è molto divertente, perché praticamente loro sono attaccati da esseri umani zombizzati, che invece alla ricerca di cervello da mangiare o di carne umana vanno alla ricerca di birra, e questo secondo me Red Fang dà piuttosto noia, e quindi niente, anche il video è molto molto bellino, è tipo uno short movie di 3 minuti e mezzo, il tempo che dura la canzone. Yeah. questi erano i Red Funk, la loro Blood Like Cream. E adesso, e adesso un pezzo che non avrei mai pensato di mettere in radio. In realtà non mai nemmeno pensavo di fare radio, quindi insomma, a volte vedi, le cose vanno così. E il pezzo, vi faccio sentire l'incipit del pezzo da internet e poi ve lo metto sul piatto. Questo è l'incipit. Spingo io la roba che non gliela fai a spingere, portami al mare dove te pare, tanto spacco uguale. Ma no, ma che insomma anche se a Spartaco, ma che non vedi che sto male? Ah sì, e oggi che malattia ci avresti? C'ho la febbre del sabato sera. Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signor? È fantastico. Pisto nella folla, me ci ammischio, il DJ gliela molla. Se corre il rischio, niente fiaschi, riempio piste. Piotta sul piatto e nessuno è più triste. Chi in pista veste come Manero Toni, mangia nastri a palla negli aspettoni. Pantaloni a zampa, la giacca nella standa, la cubista in tanga, eccita la banda. Mi metto in grande, sogno 6 allenalotto, poi mi compro tutto, quello che è coatto. Lo studio 54 e poi per disco, ma manda dire è una femmina o un maschio. Piotta lo maschio come Lando, un urlo, un lampo, il capone sul palco, il super capone, eccolo qua. Più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene, non ti ferma. Il super capone, eccolo qua. Più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene, non ti ferma. Alla fine del mese alla borsa euro piotta, di corsa la banca del seme, roba coatta, se non è roba nostra devastiamo tutto. A casa non ve manno, a senza tetto, più a palla, niente ballo di qua qua. Il super capone, eccolo qua. Come bello fa l'amore, come canta la Carrà. Andà con Califano al Festival Bar, una stella dell'hard, su novella. Brinda con funari a champagne e mortadella, sul Ferrari con una pischella del varietà. Vota Moana per cambiare la società. Il rap, chi lo ama e chi lo frega, io so coatto come Mario Brega. Il super capone, eccolo qua. De qua e de là, fammela bene, non te ferma. Il super capone, eccolo qua. Più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano, de qua e de là, fammela bene, non te ferma. Fa, fa, sì, ah, ah, ah. Piotta roba coatta, super caponi. Il sole integrale, al mare un balcone, o la classe serale dei super caponi. Giovani coatti come Manuel Fantoni. Signore e signori, io sono Mister Ok, il rapper giusto per lui e per lei. Provo disgusto per ogni gentilezza, il caffone è lucido come monnezza. Che pezza, la voce si spanne dalle Alpi alle Ande. Piotta sei grande, ignorante, con l'abbronzante abbondante fra le mutande. Il super caffone, eccolo qua. Piotta il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là. De qua e de là, fammela vede, non te ferma. Il super capone, eccolo qua. Piotta il suo nome, non lo scorda. Muovi la mano, de qua e de là, fammela vede, non te ferma. Il super capone, eccolo qua. Piotta il suo nome, non lo scorda. Muovi la mano, de qua e de là, fammela vede, non te ferma. Ma. E questo era il Piotta, super cafone. brano del 96, poi rivisitato sempre dal Piotta nel 99. Di rap sto andando e rimaniamo sul rap. Vi farei ascoltare un brano dei Cypress Hill, però remixato con i Fugees. C'ha un gran bel flow questo pezzo. Il titolo si chiama Boom Bidi Bye Bye. Refugee Cat with Cypress Hill. Cubans meet the Haitian. Perfect combination, check it. You say guns, I say we start live. Well, if you got beef, son, cállate la boca. You'll meet me on an island where the Cubans meet the Haitians. Herbal meets the verbal lyrical assassination. From LA to Brooklyn, why you doing all that talking? Think you got a soul, but you're a dead man walk. Yo, toast to host, from coast as we boast. When we meet again, I won't be Casper, that friendly ghost. You'll hear shots like the show cops. Things are still the same, I'm still growing crops. Why Clef would be real, let me build better yet. Kill or be killed. Yo, be real, watch it real. Bye-bye. Yo, open up your eyes, you'll be the next one to die. Bye-bye. As simple as they come, it's as simple as they die. Bye-bye. Yo, who told the boy to pack a 45? Bye-bye. Now we rest in the place that they call paradise. Fools run up, but they never seen the last. Fragile ass niggas get broken like glass. Can he pass? But does he possess the will, or does he need a V8 to keep him straight on the rail? Punks are crooked, so they fall off the ledge. Refugee can't bring it straight over the edge. Yo, duck, as I pluck the feathers from your skin, how you gonna win? That's like Satan with no sin. It'll never happen. While I'm rapping, I'll be watching the Philistines creeping up in Manhattan. The sun turned to blood. White Clef produced a track with Mux, but there's no survivor. They all died in the flood. Next one to die high. Yeah. As simple as they come, it's as simple as they die high. Yeah. Who told the boy to pack a 45 high? Now he rests in the place that we call paradise high. Yo, once a child, twice a villain. If this was drugs, I'd make a million off this combination. Listen, you're dope, Clef, you're dope, so they offer me sets and beer. Beware, you pull your wallet, Mr. Thief stares. The opposite direction of the room. He pulled his gun and said, I'm doomed. Join the son of man in the tomb. I see the soldiers coming from out the shadows, ready for battle. Ain't trying to hear the babble. Warriors lined up in full war gear. In it to win it if it goes on for years. Dedicated to the stable of the assassins. Revolutionaries, just bring on action. Open up your eyes, you'll be the next one to die. As simple as they come, as simple as they die. Who told the boy to pack a 45? Now we rest in the place that we call paradise. Massive soldier man, New Jersey massive soldier man, Uptown massive soldier man, Long Beach massive soldier man, you know the whole world was soldier man. E questi erano i Cypress Hill insieme ai Fugees con la loro Boom Bidi Bye Bye. Siamo arrivati alle 19:46 e siamo a metà trasmissione quasi precisa. Mi stavo chiedendo se Paolo avrà finito di lavorare, l'avranno mollato o starà ancora lì a fare cose, chi lo sa. Comunque Paolo, dai un saluto, se ti hanno mollato e mi stai ascoltando, ci stai ascoltando sulla Wombat, palesati così ci si saluta anche tramite pad. Aspetta, guardo se tu mi avessi scritto sui pad. Sì, no. Non ci sono messaggi. Andiamo avanti con la musica. E il prossimo brano è Private Hideout, brano dei B-52s. Ora mi informerò un po' di più sui B-52s. però questo pezzo spacca, cioè, e anche i B-52 spaccano. Mi ricordo da ragazzino, la prima volta che li ho sentiti, credo Rock and Roll Lobster, insomma, mi piacquero molto. Erano i B-52s con Private Idaho. Allora mi sono messo a cercare un po' di roba sui B-52s, ma veramente hanno una biografia lunghissima, quindi direi che vi dirò solo che sono stati fondati nel 76 ad Athens in Georgia, Stati Uniti d'America, non a Atene e non in Georgia, ma negli Stati Uniti, che hanno questi nomi un po' così a volte, che ricordano anche altri posti. Detto questo, vi farei ascoltare i But All Surfers, che hanno questo nome bellissimo, e il pezzo in questione si chiama Who Was In My Room Last Night. I'm flying. I'm flying. Ah, gran bel pezzo, a me piace un sacco, sia l'inizio che la parte centrale che la fine, gran bel pezzo. Loro erano i Battle Surfers. Adesso, vi ricordate i Black Keys? Bene, hanno fatto un album nuovo nel 2021, e adesso vi farò ascoltare un pezzo, la prima traccia dell'album, che si chiama Wild Child, che lì per lì io pensavo fosse una cover tipo di Iggy Pop, della canzone di Iggy Pop, ma invece no, non lo è una canzone loro. E come dicevo, è il primo pezzo che apre il nuovo album dei Black Keys, che si chiama, già non vi ho detto il nome, ora ve lo dico subito, si chiama, oh cazzo l'ho perso, aspettate, il bello della diretta, poi ma... Dropout Boogie, si chiama Dropout Boogie, sì, undicesimo album. Sono i Black Keys con Wild Child. E adesso un pezzo italianissimo del nostro Vinicio Capossera, pezzo romanticone, visto che sono le 8 e quindi mi sembra il caso di mettere un pezzo romantico. Il pezzo è Con una rosa. Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano.

Young, giustamente. Sarà Brother Dej con la sua Too Old to Die Young, e come dagli torto. E adesso, secondo me, a pennello ci sta il pezzo Long Rifle, lungo fucile, di Dome la Muerte con gli XP dal suo ultimo lavoro, che come se avete ascoltato qualche puntata fa, l'abbiamo avuto anche come ospite vocale, diciamo. Abbiamo fatto una telefonata in cui ci ha raccontato un po' di questa sua ultima uscita discografica. Beh, se ci avete voglia, insomma, di saperne di più, potete riascoltare i podcast, il podcast della trasmissione. E adesso ce l'ascoltiamo invece con la sua Long Rifle. Questo era il buon Dom La Muerte con il progetto AXP, Long Rifle, la canzone. Ora spero di non aver fatto confusione perché ho lasciato il microfono acceso, ma non credo di aver fatto troppo rumore. Il prossimo pezzo, un pezzo della Tempesta Dub Records, e quindi si parla di musica dub e reggae. Questa, il pezzo si chiama Ticking Bomb, un pezzo di Paolo Baldini, che qui featuring con Mel of Mood and, ora ve lo dico subito, datemi un secondino, Mel of Mood e Lasai e Zacky Man. Il pezzo è uscito veramente da poco, agosto 2023, quindi è quasi nuovo di pacca. Pablo sent me this track. You know we have the till lock. Chewing on the burners locked in wax. I'm an artist, I must sip on crack. When the bass line drop, we know we are sad. Stop the galley bunting, we know pop around. When the beat hit, is a retreat. Know when we in a business, the end of power force. Hold up, stand up, put up your hands up. Put up on your hands up. Move them along the ticket, hands up the clock. Put up your hands up, wave the umbrella. Ella, ella, eh. Hello, hi, I mean hello. Same fellow, I lie them a set with no mellow. One, two, bang, Canelo. Pretty tick tick, you a pretty tick tock. Pretty tick tick, on a pretty tick tock. Hold on, I must a ticking bomb. Hold on, career about to explode. Pretty tick tick, you a pretty tick tock. Pretty tick tick, on a pretty tick tock. Hold on, I must a ticking bomb. Hold on, career about to explode. If you listen my argument, eloquent. You know see with the pantalent, evident. Have a lot of lyrics patent. Send off copycat, but none equivalent. Ooh, any place we are locked up without permission. No say we come with the style and fashion. Them get amazed by the phenomenon. Them no say we are ticking bomb. That one you nice like salt and vinegar. Them boy must see my can we not up now similar. No say we bad, we never one like a beginner. Vice and melody we give them regular. Ah, this a ticking bomb. One bust on the chart like water bomb bomb. A ta dance on a king a John Don. You know we got the timpan lock. We sing along. Pretty tick tick, you a pretty tick tock. Pretty tick tick, you a pretty tick tock. Hold on, I must a ticking bomb. Hold on, career about to explode. Pretty tick tick, you a pretty tick tock. Pretty tick tick, you a pretty tick tock. Hold on, I must a ticking bomb. Hold on, career about to explode. I'm coming in like Jakarta. Forward, no retreat, no go back. Channa no Benjamin no more. Hello, my name I'm mashing up all of the jungle. Watch out, all the lyrics are flow non-stop. Rhyme delivery with a dope a big dog. Sound fatter than what you wrap up in a top. Hotter than pimento up on avocado. I saw the ticking bomb a tick and talk. Pass me the mic and make me chant another song. And we are nice up the dance and the prom. Cause some of them not sing you know them bad like dog. Cause when they go that beach I know say me glad. And when they go that beach I know say me no man. And when they go that beach me good and never sad. The bits are chop when they read in your drop. Ticky-ticky-ticky-ticky-ticky-ticky-ticky. With the go fight them son, I know the vibe I get sticky. If you don't want get out of better lower your shatter. With them rat thing clatter so we think can stick it. From me getting you in the ticking bomb. Who no start wondering where your mind have gone. Bring the tick-tock while they were shut down. Ash, too long. Baldini Dub Files, questa era Ticking Bomb. Spero vi sia piaciuto perché non è male secondo me questo pezzo, un sacco di sonorità, di suoni. Interessante, interessante. E ora si va su un classico. E ora io vado su un classicone dal 1996, un classicone di quel mostro di Marilyn Manson. Ed essendo un mostro, ci canta un pezzo che si intitola The Beautiful People. Pezzone, a me piaceva un monte, ma l'ho ascoltato tantissimo quando è uscito. questo era quel cattivone di Marilyn Manson con la sua The Beautiful People. E io sono un po' indeciso sul prossimo pezzo. Non so se mettere un pezzo degli After Hours oppure mettere un pezzo degli ZZ Top. Diciamo, sono le 20 e 22, ci possono stare tutte e due. Va bene, via, metto... Non so se mettere Dammi tutto tuo amore degli ZZ Top oppure mettere gli After Hours con Un voglio una pelle splendida. Ma mettiamo gli After Hours, via, giusto per farvi arrabbiare. Suicidio, l'amore è un robo e voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità. Questi erano gli After Hours con la loro Voglio una pelle splendida. Prossimo pezzo non è quello degli ZZ Top che volevo mettere prima, perché ho cambiato idea nel frattempo. Metterò un pezzo dei Dead Kennedys, ma che è una cover di Elvis Presley, che è Viva Las Vegas. Questo pezzo lo vorrei dedicare al ballo, anche se sicuramente non sta ascoltando la trasmissione. Oddio, sicuramente non è detto, però insomma, probabilmente no. Però insomma gli voglio dedicare questo pezzo e lo voglio dedicare anche a tutti quelli che si ricordano qualche anno fa in Santo Spirito il motivo di questa scelta musicale, diciamo, via. Era Viva Las Vegas dei Dead Kennedys, coverizzando una canzone del buon Elvis Presley. Ragazzi, sono le 8:30, io manco me ne sono accorto, quindi c'è, io metterei l'ultimo pezzo perché lo voglio mettere. Vi saluto tutti e tutte, spero che non vi siate annoiati o annoiate come da solo, visto che manca Paolo. Spero che di avervi fatto tra l'altro sorridere e d'avervi fatto ascoltare della buona musica. Ultimo pezzo, vorrei mettere un pezzo di Lou Reed, che è And His Chest. Vi ricordo che avete ascoltato Radio Wombat, probabilmente sui 13:59, oppure da un altro sito che ora mi sono dimenticato come si chiama, scusatemi. Comunque, fino a poco tempo fa il sito Wombat non funzionava, quindi se mi state ascoltando, sicuramente o siete sulle M o mi avete ripescato a qualche altra parte. Detto questo, un bacio a tutti e a tutte, ci sentiamo tra una settimana, sempre alle 7 di mercoledì, in diretta. Per chi volesse, si può riascoltare in podcast tutte le puntate, non solo di Random Nine, ma di tutto il palinsesto della Wombat. E un saluto, e questo è Lou Reed, And His Chest. If I could be anything in the world that flew, I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you. and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. 'Cause you know what they say about honey bears. When you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear bear. And all the bells are rolling out for you, and stones are all erupting out for you, and all the cheap bloodsuckers are flying after you. Yesterday, Daisy, May, and Biff were grooving on the street, and just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is what happened to her nose. Ooh, it grew until it reached all of her toes. People say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds dear for you, and all the Roman noblemen for you, and kingdoms, Christian soldiers dear for you, and melting ice cap mountaintops for you. Kiss turn prince for you. Swoop, swoop. Oh baby, rock, rock. Swoop, swoop.